Anche oggi vi porto un bellissimo pezzo di Figlia degli Elementi per fare un riassunto e farci capire di che cosa stiamo parlando oggi. Rain, la nostra protagonista, decide una domenica a fare una passeggiata in motocicletta da sola e si trova con un gruppo di altri motociclisti, tutti vecchi, entrambi Aldo, il nostro altro protagonista, bellissimo, quarantone, biondo, bello, bello, bello. E dopo questo primo incontro, lei era super nervosa, super eccitata, ha capito che lui era una grandissima tentazione, una cosa fuori lo straordinario della sua vita. E quindi lei decide di scappare di questa tentazione e torna in città. E lui, qua, questo che vi leggo oggi, è un dialogo tra loro, in cui lui ci prova di tornare insieme a lei in città, ma lei resta malissimo e decide di andarsene da sola. Ah, una cosa che dovete sapere. Rain, tra poco, si sposa con un altro che non ama.